Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30. Stiamo trasmettendo da Udine, ovviamente sui 90 MHz, e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, che è Retribution the Behind Enemy Lines. Questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics e va in onda fino alle ore 21:30 da adesso. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz di Radio Onde Furlane qui da Udine. E ora andiamo all'ascolto di un brano, anche forse due, comunque di questa band di Milano. Loro sono i Kalashnikov, o anche conosciuti come Kalashnikov Collective. E i brani che ascoltiamo sono presi dal loro 7 pollici datato 2011, che si chiama Vampirizzati Oggi, Kalashnikov. We'll be right back. per costruire il vuoto che sentiamo in fondo al cuore, nella fabbrica dei morti ha lavorato i nostri padri, per costruire il vuoto che sentiamo in fondo al cuore. Ioibe 3 di febbraio del 2022, mandi un saluto a tutte e tutti. Siamo arrivati a febbraio e con questo mese sono entrate in vigore una nuova serie di discriminazioni e di controlli sulle persone, estendendo l'esibizione del Green Pass a ulteriori servizi ed esercizi pubblici. La nostra solidarietà al coordinamento No Green Pass di Trieste, che nel pomeriggio di martedì 1 febbraio ha promosso un'azione di protesta presentandosi alle poste centrali a Trieste e che per questa azione subirà denunce e molto probabilmente anche condanne. A chi vuole esercitare non solo un diritto, ma anche un cosiddetto dovere di cittadino, come pagare una bolletta, si risponde inviando un plotone di agenti della polizia. Cosa dire? Avanti così, bravi, continuiamo. Comunque, vabbè, i trattamenti non sono stati continui durante tutti i 4 giorni, bensì differenziati con pause. Ricordo che senz'altro durante tutto il periodo non mi è stato consentito di dormire in nessun modo. Sì, scusatemi, è un disguido che è andata in onda un audio che avrebbe dovuto, che andrà in onda più tra qualche minuto, invece ritorno in diretta dandovi lettura di una lettera di Mauro Rossetti Busa, di cui abbiamo parlato, prigioniero, di cui abbiamo parlato già le scorse volte, che è stata scritta dal carcere di Ascoli Piceno il 10 gennaio scorso. Vado a leggervi. Ho voluto rivolgermi a voi con la speranza che da parte di tutte e tutti giunga una risposta non solo per iscritto, ma un po' della vostra attenzione organizzativa, un po' della vostra mobilitazione. Da circa 2 mesi nel penitenziario di Ascoli Piceno, nei 2 reparti giudiziari, molti detenuti sono risultati positivi al Covid e, come se non bastasse, anche all'interno del nostro reparto, ex 41 bis, c'è un detenuto positivo che viene tenuto in cella con blindo chiuso perché in infermeria non c'è posto. Questo detenuto non è autorizzato a usufruire delle attività sportive. Dalla TV ho appreso che in questo momento ci sono altre 5 o 6 strutture carcerarie in Italia dove detenuti agenti si trovano in quarantena. Ormai il carcere non è più solo un luogo dove si sconta la pena, ma può diventare la trappola mortale senza via di uscita. Il dirigente sanitario responsabile della salute dei detenuti di Ascoli Piceno pare non interessarsi del problema. C'è, ma è come se non ci fosse. Credo che anche altre carceri si trovino nella stessa situazione. E per quanto riguarda la ministra della Giustizia, sembra, anzi è probabile, che le convenga fregarsene del fatto che in molte carceri persiste nuovamente l'emergenza Covid. Mi rivolgo con questa lettera aperta a tutti i compagni e le compagne per questo motivo, e vi abbraccio e vi saluto. Ecco, questa era una lettera, appunto, che portava l'attenzione di nuovo sul discorso della gestione sanitaria nelle carceri, e colgo l'occasione anche per mandare un saluto a chi dovesse ascoltarci da una situazione di restrizione delle sue movimenti e fosse recluso in un carcere qui in via Spalato o nella nostra zona. E direi che possiamo fare ancora una pausa musicale, linea musicale di un brano che volete voi. Parlo comunicazione di servizio. Quando mostri il pugno dicono, non è incomprensione. Il sangue scorre nelle mie vene, le sensazioni scorrono nella mia mente. Quando parlo la gente non capisce, quando mi fanno sentire un verme. I loro sguardi ti cancellano, colpo di spugna sulla lavagna. Sì, lo so, meglio di te, di cambiare ogni visione. Non sei eroi veri, mi sento che non sono come loro. Non voglio contestare l'amore, guardare l'ultima carezza della vita. Ecco, di nuovo in diretta su Radio Onde Furlane quando sono le 20:19. del 3 febbraio. Di anniversari, come è noto, ce ne sono quasi ogni giorno e diversi. A livello istituzionale, appunto istituito da una ventina d'anni ormai, il giorno della memoria, che è il 27 gennaio, giorno in cui commemorare le vittime della Shoah. Una manciata di giorni che anche quest'anno sono trascorsi con iniziative, mostre, convegni destinate appunto alla memoria dello sterminio nazifascista della popolazione di religione ebraica e connotate, se non sempre, spesso, con i toni del vittimismo. Noi invece in questo spazio radiofonico Zardins Magnetics abbiamo una linea editoriale autonoma dalle autorità istituite e questa sera intendiamo riandare con la memoria agli ultimi giorni di gennaio del 1982 e a quanto successe in una caserma della Celere a Padova, per inquadrare anche, ma non solo, in che modo in questo paese 40 anni or sono fu gestita e risolta la conflittualità armata, e cioè con la tortura, la distruzione dell'identità dei militanti delle organizzazioni comuniste combattenti allora operanti. L'audio che andiamo ad ascoltare fra poco riporta la testimonianza del militante delle Brigate Rosse Cesare Di Lenardo nel processo a carico dei poliziotti aguzzini del Nox che lo torturarono per 5 giorni. Andremo poi a leggere dei brani dal libro di Marita Prette, Tortura, una pratica indicibile. Quindi buon ascolto, diciamo, ascoltiamo l'audio annunciato. Comunque, i trattamenti non sono stati continui durante tutti i 4 giorni, bensì differenziati con pause. Ricordo che senz'altro durante tutto il periodo non mi è stato consentito di dormire in nessun modo. C'è una seggiola a questo inizio. Come? C'è una seggiola, non sedersi. A un certo punto dentro c'è anche, però non ricordo bene, non in un primo momento senz'altro, forse la prima sera o forse la mattina successiva. Comunque tra il primo e il secondo giorno senz'altro si è introdotto questo fatto della sedia. Quindi si è seduto. Esatto. Si è seduto. Quindi si è seduto di spontanea volontà, sono stato costretto a sedermi, nel senso che dovevo mantenere una posizione stabile sulla sedia, non piegarmi in avanti, non piegarmi indietro. Ricordo che ho cercato di accompagnarmi al muro per poter appoggiarmi, anche perché erano parecchie ore che era successo tutto questo. Oltretutto avevo fatto il turno di notte col generale, per cui non avevo niente dormito. Per quanto riguarda la possibilità di dormire, mi veniva sistematicamente vietata, cercavo, non ero nelle condizioni migliori per farlo. In ogni caso, ricordo con precisione che c'era un sistematico ostruzionismo, nel senso mi veniva anche in termini non sempre dal gruppo, perché il trattamento di pestaggio, o poi le descriverò gli aspetti come la scarica elettrica, oppure la questione delle piante dei piedi, o altre questioni, le bruciature, eccetera, veniva fatto da gruppi che entravano e uscivano poi dalla stanza. All'uscita del gruppo, ecco, ritorniamo a questo primo pestaggio. Allora, alla fine di questo primo pestaggio qua, allora, dopo i vari preannunciamenti, la cosa che mi ha stupito di più, perché non ne capivo l'utilità, è stato il fatto che mi hanno tolto, a quel punto avevo già le manette, sì, perché c'è stato, non sono in grado di orientare proprio bene, c'è stato il passaggio dalla stoffa alle manette, c'è da tenere presente che le manette venivano anche cambiate. C'è una correlazione tra braldina e manette? Penso di sì. Sì, perché non era, però non sono in grado di collocarla nel tempo. Quando dovrà essere qua modo. Grosso modo. Sì. Le manette ogni tanto venivano cambiate, una volta volte venivano messe diverse. C'era qualcuno che metteva più strette, qualcuno che metteva relativamente più larghe. Ricordo una in particolare che forse può dare delle indicazioni ulteriori. Adesso le mani erano davanti? Sempre dietro. Le mani mi sono messe. Sì, sì, sì. Le mani mi sono messe davanti, sono state messe davanti soltanto dopo l'affare dell'acqua, quando poi è finito sostanzialmente il trattamento e mi è stato dato delle materie. Vendato sempre, tranne un episodio in cui c'è stato il finto magistrato. C'è stato, sì. E sempre romantico, nel primo tempo le altre con dei pazzi. E successivamente con Maretti, sempre bendato e mani sempre dietro la schiena, anche quando non era bravo. Un piccolo particolare sulle manette, siccome c'è stato un diverbio probabilmente tra uno e un suo superiore, suppongo dal tipo di autorità dell'uno e dell'altro. Siccome uno mi aveva, oltre che legato le manette di Roschi, le aveva anche agganciate, costringendole in una posizione abbastanza scomoda, diciamo così, al legno della branda, uno dei due legni della brandina con la tela. E ricordo che, suppongo che sia alla fine di un turno, perché c'erano dei turni relativamente sistematici, è stato richiamato da quello successivo, o era quello che mi ha messo le manette successive, oppure c'era stato un suo superiore. Sì, è stata un'eccezione quella di essere legata anche alla brandina. Che, siccome ricordo che c'è stato questo diverbio, può darsi che da qualche parte sia venuto fuori anche su di noi. Poi, quando mi portano via. La cosa che mi ha stupito è stato il passaggio delle manette di ferro, di quelle normali in dotazione, da dietro la schiena ai piedi, cosa di cui non capivo la ragione, e invece le mani mi sono state di nuovo legate, di nuovo con degli stracci di stoffa. A partire dal 1979 viene messa in atto dalla controparte delle formazioni armate quella che potremmo definire, non senza ironia, una strategia del pentimento. Essa ha due funzioni: acquisire informazioni, ma anche distruggere la solidità delle relazioni fra i militanti, demotivandoli. Le organizzazioni armate sono tutte nate come gruppi caldi, come quei gruppi che nascono dal basso a partire da legami amicali forti e da una condivisione profonda dei valori messi a fondamento dell'esistenza del gruppo stesso. Se il passaggio da una formazione all'altra è possibile senza recidere quei legami, spezzare il vincolo di solidarietà esplicito per uscire da quell'area di riferimento non è altrettanto semplice. Le dinamiche qui sono quelle proprie di tutti i gruppi, e non approfondiremo questi aspetti che ci porterebbero altrove, ma va detto che sarà grazie a questi dispositivi tipici dei gruppi sociali che la strategia del pentimento potrà prendere piede e dare il suo contributo alla fine dell'esperienza armata. Il 17 dicembre 1981 le Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente sequestrano a Verona il generale americano James Lee Dozier, un veterano del Vietnam, del quartier generale NATO, vicecomandante delle forze terrestri per il Sud Europa. Il 28 dicembre il ministro dell'Interno istituisce con decreto un gruppo operativo centrale sicurezza con sede nella prefettura di Verona, avente l'incarico di provvedere al coordinamento sul piano nazionale delle indagini concernenti il sequestro. La presidenza di questo gruppo è affidata al prefetto di Verona, Gaspare De Francisci, che si avvale della collaborazione degli organi di polizia di Stato, nonché dei reparti operativi dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Troviamo qui un consistente elenco di diverse figure di un certo rilievo: generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, questori e vicequestori della UCIGOS, come dirigenti della DIGOS, commissari capi di diverse questure, da Verona a Genova, a Firenze, a Bologna, che a loro volta si avvalgono di personale degli uffici di appartenenza, di personale delle questure competenti per territorio, della Polgai di Brescia, del reparto Cellere di Milano, per citarne alcune. Si tratta insomma di un gruppo operativo che ha il compito di trovare dossier e che dispone di tutte le autorizzazioni che gli occorrono per farlo usando qualsiasi mezzo, come dirà l'allora presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Spadolini in due interviste televisive. In una Spadolini si rivolgerà al popolo italiano con l'esplicita frase: useremo tutti i mezzi per ritrovare e liberare il generale. Nella seconda si rivolgerà agli operatori della stampa e inviterà esplicitamente i giornalisti a responsabilizzarsi circa l'informazione su eventuali notizie di cui venissero a conoscenza. In quei giorni, nel Veneto, vengono prese e torturate decine di persone, alcune delle quali nulla hanno a che fare con la lotta armata. Si tratta di un'operazione a tappeto di cui è rimasta traccia nei verbali di sommarie informazioni delle questure venete in quel periodo. Altri, invece, sono militanti di formazioni armate e alcuni di essi rilasceranno testimonianze e denunce. Uno dei torturati sa davvero dov'è Dozier e lo dice. Fino a qualche anno fa non esistevano documenti su questo fatto, poiché Volinia era semplicemente passato alla storia come l'infame che ha fatto trovare Dozier. Nel 2012, tuttavia, Salvatore Genova, che faceva parte del gruppo operativo centrale sicurezza e che aveva a suo tempo evitato il processo per le torture a Di Lenardo, facendosi eleggere nelle liste del Partito Socialdemocratico Italiano, diventando così improcessabile, non avendo dato alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere, ha rilasciato ampie testimonianze. Su questo punto in particolare le sue parole. Io sono fuori per degli arresti e quando rientro in questura vado all'ultimo piano. Qui, separati da un muro, perché potessero sentirsi ma non vedersi, ci sono Volinia e la Arcangeli. Li sta interrogando Fiorioli, ma sarei potuto essere io al suo posto. Probabilmente mi sarei comportato allo stesso modo. Il nostro capo in prota segue tutto da vicino. La ragazza è legata, nuda, la maltrattano, le tirano i capezzoli con una pinza, le infilano un manganello nella vagina. La ragazza urla, il suo compagno la sente e viene picchiato duramente, colpito allo stomaco, alle gambe. Ha paura per sé, ma soprattutto per la sua compagna. I due sono molto uniti, costruiranno poi la loro vita insieme, avranno due figlie. È uno dei momenti più vergognosi di quei giorni, uno dei momenti in cui dovrei arrestare i miei colleghi e me stesso. Invece carico insieme a loro Volinia su una macchina, lo portiamo alla villetta per il trattamento, lo denudiamo. Legato al tavolaccio, subisce l'acqua e sale e dopo pochi minuti parla, ci dice dove è tenuto prigioniero il generale Dozier. Così, la mattina del 28 gennaio 1982, un nucleo operativo centrale sicurezza, NOX, il corpo speciale alle dipendenze del gruppo operativo costituito dal Ministero dell'Interno, fa irruzione in un appartamento di Padova dove trova 5 militanti delle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente e Dozier. I media in quel giorno e nei seguenti daranno ampio risalto a questa perfetta operazione di polizia, riuscita in 90 secondi senza colpo ferire. Cosa succede in realtà a Padova? Lo sapremo nei dettagli con il tempo. I 5 arrestati vengono bendati, legati con le mani dietro la schiena e fatti stendere per un po' sul pianerottolo della casa di via Pindemonte, dove i poliziotti camminano con gli anfibi sopra di loro, comprimendo le loro teste e dando loro calci ai fianchi. Viene anche usato uno strumento non meglio precisato per scorticare loro i glutei dopo aver strappato i pigiami che i militanti indossavano al momento dell'irruzione. Qui parla di nuovo Cesare Di Lenardo. Queste percosse, con conseguenti lesioni, inflitte a me e ai miei compagni, seguivano alle domande che fin dall'inizio ci furono poste circa la nostra identità e i nostri nomi di battaglia. Poiché tutti noi ci limitammo a dichiarare il nostro nome e cognome e non dichiarammo anche il nome di battaglia, per costringerci a rivelarlo venivamo percossi nel modo descritto. Successivamente i 5 vengono portati nei locali dell'ispettorato di zona, nella caserma del secondo reparto celere di Padova, e messi ciascuno in una stanza, bendati e legati a una sedia, privati del sonno per tutta la durata del trattamento. L'ordine del questore è che siano guardati a vista e a tal fine le porte sono aperte sul corridoio, dove staziona un poliziotto di guardia davanti a ogni porta. In realtà le porte verranno spesso chiuse quando gli uomini del coordinamento istituito dal Ministero verranno a interrogare i detenuti. Nel corso di questi interrogatori vengono praticate torture che vanno dalle scariche elettriche ai genitali, con strumenti che possono variare l'intensità delle scariche, alle ustioni simili a quelle provocate da bruciature di sigaretta nel bacino, nella zona pubica, sul dorso delle mani e tra le dita, al tagliuzzamento dei polpacci con strumenti acuminati simili a lamette. Testimonianza di Emanuela Frascella. Gli agenti presero allora a maltrattarmi, mi alzarono la gonna, mi abbassarono nuovamente collan e mutande e mi strapparono altri peli del pube. Inoltre mi alzarono la maglietta e mi tirarono i capezzoli. Poi mi fecero alzare e mi fecero appoggiare al tavolo, dicendomi che mi avrebbero violentato, infilandomi in vagina una gamba della sedia. Alcuni giorni dopo, 4 di loro, Ciucci, Frascella, Libera e Savasta, cominciano a collaborare e le urla nelle loro stanze cessano. In quella di Cesare Di Lenardo, no. Vorrei qui sottolineare il carattere distruttivo dell'identità che ha un trattamento di tortura. La tortura non si improvvisa, è una tecnica e in quanto tale ha delle sue regole, dei suoi ritmi, spazi, tempi. Mira a ottenere il controllo dell'identità prevalente nella persona, ad annientarla per sostituirla con un'identità, sia pure fittizia, funzionale ai torturatori. Per questo, tra le tecniche utilizzate sui militanti di formazioni armate, ricorre la prima domanda riguardo al nome di battaglia, che spesso il torturatore già conosce. Non ha importanza all'inizio avere informazioni in sé, l'essenziale è che l'identità prevalente ceda. Man mano che cede, la persona perderà rispetto di sé e per il torturatore sarà più facile manipolarla. Successivamente sarà l'identità fittizia, alla costruzione della quale provvederanno i torturatori e alla quale il torturato dovrà aggrapparsi con tutte le forze per non morire, avendo perduto se stesso, a collaborare spontaneamente. La cosa che accadrà alla maggior parte degli arrestati in via Pindemonte sarà proprio questa: l'identità fittizia consentirà la collaborazione. Essi negheranno le torture subite e soltanto quando saranno convocati come testimoni in sede di interrogatorio da parte di un giudice ammetteranno in parte quello che è stato loro fatto. La Libera dirà addirittura che racconta le torture solo per solidarietà verso i poliziotti che hanno accettato di testimoniare contro i loro colleghi. Antonio Savasta, quando gli chiederanno conto delle bruciature che ha sulle mani, dirà che sono stati i ricci di mare mentre faceva il bagno. Testimonianza di Gianfranco Fornoni. Qualcuno, penso, dopo aver parlato, scelse la strada della collaborazione definitiva, non potendo quindi più denunciare ciò che l'aveva spinto a parlare. Altri, al contrario, non parlarono affatto e ritennero superfluo mettere in piazza una vicenda comunque umiliante, perché ciò che fa male genera un pudore ineguagliabile. Tornando a Padova, al piano rialzato della caserma della Celere, si protraggono le torture per Cesare Di Lenardo. Dopo una settimana, di notte, egli viene preso, bendato e imbavagliato, caricato come un sacco nel bagagliaio di un'auto, portato all'aperto in una imprecisata località di campagna e sottoposto a una finta fucilazione. Paradossalmente, sarà proprio il fatto di essere stato portato fuori dal luogo legittimo di detenzione, in questo caso la caserma della Celere di Padova, che consentirà, mesi dopo, al giudice di inquisire alcuni agenti del NOX. Questa pratica è, d'altra parte, consueta e ricorre in numerose testimonianze. Testimonianza di Anna Maria Sudati. La notte, dopo avermi incappucciata, mi portano in aperta campagna. Mi spogliano lasciandomi solo le mutande e per circa un'ora e mezza mi tengono lì con le manette ai polsi e alle caviglie. Quella notte a Venezia la temperatura minima era di meno 4 gradi. Mi riportano in caserma e per un giorno mi tengono senza mangiare né bere, facendomi camminare in continuazione per impedirmi di dormire, mentre mi facevano domande in continuazione. La dimensione totale della tortura emerge nitida. Portare una persona in un prato, in una pineta, tenendola incappucciata e legata nel cuore della notte, sapendo che non potrà sperare nemmeno nell'arrivo fortuito di un'auto della polizia, poiché chi le sta facendo questo è la polizia, serve anzitutto a rendere realistico il concetto più volte ribadito dagli stessi torturatori: sei nelle nostre mani, possiamo fare di te ciò che vogliamo, che ricorre in quasi tutte le testimonianze dei torturati. Dopo questo viaggio notturno, Cesare Di Lenardo viene portato nei sotterranei della caserma e lì denudato, legato al tavolo e sottoposto alla tortura dell'acqua e sale, tecnica con alcune varianti nota sia come algerina sia come waterboarding, che sembra risalire ai tempi dell'Inquisizione spagnola, alla quale era gradita poiché non lascia segni visibili sul corpo. Nel corso di questo trattamento gli si perfora il timpano e comincia a fuoriuscire pus misto a sangue dall'orecchio sinistro. Questo è una violenta reazione involontaria a livello fisico nervoso che farà saltare il suo corpo sul tavolo benché legato, indurrà i suoi torturatori a sospendere il trattamento, slegarlo e a togliergli la benda, consentendogli di avere sempre dalla denuncia di Cesare e di Lenardo, uno sguardo d'insieme di quella camera di tortura e dei torturatori, dai 15 ai 20, che avevano il volto coperto da passamontagna e sottocaschi. Una ventina di persone incappucciate sembrano un po' troppe per torturare un solo uomo. Più verosimilmente è il numero giusto per partecipare a un corso di tortura. Qui si conclude le letture dal libro di Marita Prette, Tortura, una pratica indicibile. In conclusione ricordiamo che, oltre che al fortuito incidente, diciamo, per cui Di Lenardo si è ritrovato con il timpano perforato, oltre a questo va ribadito che anche merito a, diciamo, all'emergere di questo, di tutto questo, diciamo, sommerso di dispositivi repressivi, chiamiamoli così, merito va anche alla perseveranza e alla lucidità senza eguali in quell'epoca, perlomeno nei suoi compagni, di Cesare Di Lenardo, che, e qui concludo, si trova ancora rinchiuso in carcere con la condanna all'ergastolo. Possiamo andare con il brano musicale dei Quinto Braccio. Torniamo in diretta, poi continueremo con le letture. Quindi voltiamo pagina e andiamo con l'approfondimento. E, dunque, continuiamo con il percorso iniziato già da alcune puntate, a partire da una frase di Walter Benjamin, cioè che in realtà è una tesi di filosofia della storia, e la frase fa così: anche i morti non saranno al sicuro dal nemico se gli vince. e questo nemico non ha smesso di vincere. Quindi un percorso che abbiamo cominciato e che si addentra sulla questione della memoria militante, sui militanti politici e rivoluzionari, sul tramandare metodi e tendenze di lotta da una generazione all'altra. Ma dato che l'abbiamo nominata, andiamo un momentino a leggerla insieme, questa sesta tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin. Un attimo che la sto cercando, eccola. Sesta tesi: articolare storicamente il passato non significa conoscerlo come propriamente stato. Significa impadronirsi di un ricordo come esso balena nell'istante di un pericolo. Per il materialismo storico si tratta di fissare l'immagine del passato come essa si presenta improvvisamente al soggetto storico nel momento del pericolo. Il pericolo sovrasta tanto il patrimonio della tradizione quanto coloro che lo ricevono. Esso, il pericolo, è lo stesso per entrambi, di ridursi a strumento della classe dominante. In ogni epoca bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo, che è in procinto di sopraffarla. Il Messia non viene solo come redentore, ma come vincitore dell'anticristo. Solo quello storico ha il dono di accendere nel passato la favilla della speranza, che è penetrato dall'idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico se egli vince. E questo nemico non ha smesso di vincere. Quindi, per proseguire stasera in questo percorso, approfondiremo con delle letture il lavoro di Danilo Montaldi. Danilo Montaldi nacque nel 1929 e scomparve nel 1975, era cremonese e fu un intellettuale autodidatta e militante politico di cultura proletaria. Montaldi scrisse nel 1960, insieme a Franco Alasia, Milano Corea, inchiesta sugli immigrati. Nel 1961 Autobiografie della leggera. Nel 1971 Militanti politici di base. Postumo venne pubblicato nel 1976 il saggio sulla politica comunista in Italia, 1919-1970. Davis, quel brano di Miles Davis. Allora, leggiamo appunto dal libro Militanti politici di base di Danilo Montaldi, uscito nel 1971, ricordo. Introduzione. posti i criteri di una ricerca come inseparabili dal punto di vista di classe, che fa proprio l'esercizio della dialettica, si individua nel militante politico di base il fattore attivo che da una condizione e cultura assai specifiche tende al massimo scopo di organizzare la classe di cui fa parte e di ricostruire la società. Vicino a forme di vita, visioni del mondo, ideologie che persistono e accompagnano l'uomo contemporaneo, non soltanto nei suoi momenti di ricaduta, altre se ne impongono che non soltanto sono adeguate in rapporto alla situazione nuova degli anni, ma sono di chiara anticipazione, sono una premessa. Può sembrare strano parlare di anticipazione mentre si presentano delle memorie, ma si noterà che il motore dal quale queste varie coscienze sono animate è sempre un certo conflitto con il tempo storico, che si estende dalle ragioni politiche a tutte le norme di vita e di costume. Nell'occhio della trasformazione agraria, nella città isolata come nella frazione di paese, si sviluppa l'atteggiamento del militante di base, per relazione con il mondo delle idee, con l'organizzazione di classe, con la diretta esperienza di lavoro. Se da una parte l'ambiente trattiene, pur nel mutamento delle strutture, generi di vita superati, dall'altra se ne esprimono di divergenti che procedono nel senso collettivo. Sono espressioni di una classe che ha la vocazione maggiore di integrazione del mondo, più che i prodotti di un ambiente particolare. Ma non si può conoscerli che in relazione all'ambiente nel quale essi, i militanti, hanno operato e sono attivi. Già questo assegna alla ricerca il compito di intercorrere dalle strutture ai comportamenti individuali, di cogliere una rete di relazioni interne spesso inconsce a se stesse in quanto espandono nel collettivo. La coscienza del militante di base matura superando la serie dei limiti che derivano dalla stessa lotta tra le classi. Il divario tra il militante e la classe alla quale egli appartiene continua a sopravvivere. Tendenze soltanto ideologiche, a partire dalla giusta rilevazione di quanto sia profondo il divario tra la classe e i partiti che a essa si richiamano, concludono al rifiuto del concetto di partito come parte della classe, perché si isolano in una visione la quale è soltanto l'altra faccia della esperienza burocratica che si sovrappone alla classe. Gli sfugge la conoscenza di che cosa sia un corpo di militanti in rapporto a una base. Come il militante di base sia una delle condizioni della classe. Come la parte abbia ancora per anni una funzione insopprimibile. Si tratta piuttosto di quale parte scegliere. Opposta a quella parte che si sovrappone alla classe, che le attuali tendenze di revisione e contropiano si illudono tuttavia di recuperare, rimane la parte dei militanti di base, che rappresentano il partito nella classe. Il partito, a queste condizioni, è già dissolto per la sua funzione negativa, ma è funzionale in quanto composto di compagni, che possono anche essere di tessera diversa. Il militante di base aderisce alla classe, ma non è più classe, è parte di essa. La distinzione anche qui viene da lontano. Insistere nella polemica contro il modello bolscevico e dimostrare da parte di neoaccademici marxisti di voler inseguire strani fantasmi. Il modello leninista d'organizzazione è il risultato di una osservazione e di una pratica di chiara derivazione sociologica. Esso intende agire sul terreno economico, in considerazione di un cambiamento sociale totale. Se una prima volta chi scrive ha voluto partire dalla conoscenza delle esigenze umane più umili, citazione di Hegel, e ha incontrato i documenti della leggera, questa volta, per un confronto tra visioni del mondo e strutture sociali, ha voluto guardare ai protagonisti della critica più radicale che viene rivolta nei confronti della società attuale attraverso quel lato effimero grazie al quale, secondo Karl Marx, la dialettica accoglie le cose e le situazioni, gli esseri e le strutture. Che cosa di più effimero della vita di un militante di base? Che cosa, d'altra parte, di più dentro? Giusta l'importanza civile delle guerre nella nostra storia, l'epoca è ricca di una memorialistica di guerra, non di guerra civile. A cose compiute viene celebrato l'incontro di soldati di nazioni in guerra, non lo scontro tra cittadini di uno stesso paese. La memoria del militante delle lotte civili non ha un quadro di riferimento preciso che fornisca contesto. Anche, in conseguenza della mutata funzione delle organizzazioni e dei partiti che alla classe operaia e ai contadini si riferiscono, per cui l'intero patrimonio delle esperienze non è più agibile. Tra uomini, dunque, che già non tendono a lasciare memoria di sé se non nel piccolo dei rapporti immediati e tra uguali, compagni, a differenza della leggera, che intende lasciare scritto da parte del ricercatore, è stato rifiutato qualsiasi metodo di campionamento. Da una parte, non è estranea a questa posizione un tentativo determinato di contribuire alla dissoluzione della sociologia quantitativa e delle sue norme tecniche. Dall'altra, è chiaro che per quanto riguarda dei militanti politici, sono essi stessi che indirettamente si impongono, come si sono scelti nel ruolo che svolgono, all'attenzione del ricercatore. Vale a dire che se da un lato mi sono costantemente applicato alla ricerca di attivisti che avessero vissuto profondamente il conflitto, indipendentemente dai fatti, i quali, quando si sono avuti, possono essere avvenuti in un luogo di lavoro qualsiasi, in un'osteria, in un quartiere, in una frazione di paese, dall'altro non potevano che essere certe e non altre le personalità che venivano all'incontro. Nel confronto, il ricercatore si è limitato a chiarire l'utilità obiettiva della spersonalizzazione individuale attraverso il resoconto dell'esistenza, dell'esperienza condotta, per proiettarle fuori dal privato e dalle relazioni vicine, ai fini di una comune ricerca dove tutto rimane imprevedibile e da fare. Tale effimero individuale riconduce alla dialettica. L'inevitabile parzialità di queste autobiografie, non più soltanto nei confronti di una visione ufficiale, ma ora anche riguardo a una versione di partito o di movimento, anch'essa selezionata e di istituto quando non di classe, è un limite che consente di riferirci concretamente alla società, a come vi si vive nell'intenzione sovvertitrice, al problema del perché si milita. Non ricerca monografica, perciò, che tenda a circoscrivere, fondandosi su un hic omogeneo, ma elemento di critica e di analisi in relazione al divenire della realtà naturale, sociale, culturale. È chiaro che non si riesce a capire la parte se non si tiene conto dell'intero, ma se ci si ponesse la domanda attorno a come si apprende la politica nelle classi subalterne e se si cercasse la risposta lungo queste autobiografie, non si potrebbe fare a meno di notare come c'è stata una rottura con le tradizioni internazionali, locali e familiari, e il movimento verso una propria caratterizzazione come militanti avviene lentamente ma a partire dal presente. La politica è vista spesse volte allo stesso attivista come una cosa sporca e l'espressione rivela un certo rifiuto istintivo proletario, per il quale si manifesta pure una subordinata aspirazione alla purezza dei rapporti interpersonali. Ma per tutti i militanti, la politica è qualcosa che per farsi ha bisogno dell'impegno individuale e di gruppo. Certe tendenze del pensiero sociologico volgono a spiegare i movimenti sociali come il prodotto di gruppi che, versando in condizioni insoddisfacenti e precarie entro il quadro dell'ordine esistente, trovano nell'ideologia del movimento socialista la leva o l'illusione per un proprio riscatto. Con una certa logica si passa quindi al suggerimento, dai consiglieri al principe, dell'apertura, della promozione affinché il quadro permanga immutato. La cultura politica in questa visione passa per una sottocultura. La fragilità di questa impostazione sui rapporti tra la cultura e una sottocultura politica di intenzione rivoluzionaria si è dimostrata anche di recente nel maggio 68, come in seguito a un moto sociale la presunta sottocultura diventi allora la cultura, anzi il riscatto, la possibilità reale della cultura, è certo un tema da proporre a quanti improvvisamente risfoderarono dal proprio bagaglio una follia di ferme ipotesi e di citazioni ballerine. Il meccanismo che porta alla politica l'operaio e il contadino è un altro, non soltanto le descrittive precarietà. È sempre mediato e a determinarlo gioca a volte l'influenza del militante, quel senso del quale il militante partecipa di vivere in una leggenda, come in un passato futuro che altri gli attribuiscono. Il militante che è cosciente di tale ingabbiatura e se ne è già intellettualmente emancipato è libero di agire senza tenerne conto, per cui il fatto, il gesto che compie, diverso e fuori norma, viene accettato come tale perché è stato compiuto da lui. Questo è uno degli elementi che unificano tra militanti di ieri e di oggi. L'atteggiamento che sostiene i principi innanzitutto proviene dalla fase in cui le masse si politicizzavano. Ora, nella fase della dissoluzione partitica, l'atteggiamento di riattaccarsi ai principi viene sentito dai militanti di base come un ostacolo alla rilevazione dei veri caratteri della situazione, la quale si fonda su altre leggi da scoprire. Il militante di base diffida oggi del ricorso ai principi, vi intuisce una semplificazione a una fase precedente. Come spesso accaduto, il rispetto formale dei principi, i quali inoltre sono ideologicamente coagulati entro le strutture partitiche e sindacali non più sentite come proprie, in quanto crea una serie di limiti astratti e soltanto verbali, è un ostacolo all'esercizio della nuova esperienza da condurre. Queste particolari nozioni, utilizzo della leggenda attribuita, ricorso ai principi o disposizione alla ricerca, non si imparano a scuola, per quanto sia tuttora ricordata la funzione dei maestri socialisti ante 14, in campagna e in città. L'ineguaglianza dello sviluppo, come si incarna nella pratica attiva del militante, lo porta a saltare delle tappe anche nel rapporto con gli altri e con le istituzioni, gli operai, i partiti. Per cui egli è sempre un po' fuori, fuori dal comportamento quotidiano degli altri e spesso un isolato. Dove consiste il dramma di una coscienza politica proletaria è proprio nell'isolamento, nella paura di un tempo che fugga senza bisogno di protagonisti come il militante sa di essere, in un certo timore di una storia che superi e deformi maggiormente il senso di quanto è stato realizzato e il mondo stesso. Appare dunque dal sentimento di questo dramma che incombe, di un proprio isolamento nel gruppo stesso dei pari, nel partito, come si situi assolutamente nel presente la funzione che a se stesso attribuisce il militante di base, lontano da quel leggendario passato futuro che gli viene attribuito attorno. La teoria del proletariato porta, infatti, alla decifrazione delle classi e all'interno della classe operaia una solidarietà è stabilita, in opposizione all'ideologia del vicino, del piccolo borghese, che tende alla concorrenza individuale, all'assenza di solidarietà di classe. La solidarietà porta al dinamismo sociale, nel quale il militante svolge la funzione che gli compete. Ne deriva, e non è strano, che egli è più attivo nei momenti di tensione sociale, quando maggiore è questa solidarietà, o maggiormente posta in pericolo. L'unità non è un fatto marginale, ma da raggiungere. L'avvenire è anticipato in prospettiva. Non esiste una identità di natura tra i militanti, ma un comune riconoscimento nei compagni che sono caduti e nelle azioni che si sono svolte insieme e sono andate bene. Il vecchio movimento operaio ha tenuto fino al 1955, anche grazie a queste che potremmo chiamare virtù. Dopo di allora, si è guardato sia più lontano, la comune, i consigli, sia ci si è identificati più al presente, il Vietnam, i negri, mentre cresceva la distanza dai partiti nazionali. Nonostante questa costante espansione solidale, la vocazione manifestata dagli autobiografi è stata in genere quella molto lombarda, nel senso di Stendhal e di Manzoni, di venir conosciuti dai 25 lettori. Non soltanto perché il militante dà per scontato che certe cose si conoscano e il ragionamento da fare sulle stesse, ma anche per quello scrupolo costante di non volersi elevare dal proprio mondo. Il ritegno che sottolinea l'effimero e guarda i 25 lettori soltanto e parla in parole povere proviene anche dal sentimento di imbarazzo che prova in generale il militante alla rilettura della propria biografia, dove gli pare di mettersi troppo in mostra, di aver fatto tutto lui. Il rapporto deve essere vicino per l'attivista, come per Margit, la cellula risiedeva tra i paracarri. Gli attivisti contadini si esprimono in dialetto per influenza dell'ambiente, ma la loro coscienza è moderna. Da un terreno solcato da migrazioni, sommerso da ristagni, che si esprime nei gerghi più vari, questi attivisti avanzano a dire che il mondo è moderno. Nonostante certi vizi che si manifestano anche in questi testi, come un senso della fatalità che va a colpire individualmente l'avversario diretto, il fascista, nessuno di loro propone un sistema, anzi, ognuno preferisce parlare d'esperienza. E per conoscere dobbiamo noi aprire sullo sfondo. Essi ci rimandano al mondo, dove conviene rimanere, come ancora Margit, col piede levato. Che cosa di tutta l'elaborazione letteraria dalla guerra dei contadini all'Ottocento sia arrivato nel linguaggio di questi militanti politici di base può essere decifrato a partire dai testi, ma è forse più utile, per intendere, aver discorso di argomenti importanti con i propri concittadini. Cannone! È meglio che niente! meglio che niente, è meglio che niente. Perché diviso e votati tra un futuro, perché ti cade da sempre. Perché vuoi vederti sottomesso ai suoi valori, per tutti questi bastardi sarà meglio che niente. È meglio che niente, è meglio che niente, è meglio che niente, per tutti questi bastardi sono meglio che niente. Quasi agli sgoccioli anche di questa puntata di Zardins Magnetics, trasmissione realizzata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo che questa, come le puntate precedenti, le trovate in podcast, ovvero potete riascoltarle nel momento della giornata che vi va meglio e nel giorno della settimana che vi va meglio. Tutto questo lo potete fare andando o digitando sul motore di ricerca Zardins Magnetics. Altro modo è digitare sul vostro browser zardinsmagneticsradio.noblogs.org, punto il blog dove poi carichiamo l'audio della la registrazione di questa trasmissione, come delle altre, che va in onda in diretta. E, sono qui anche per ricordarvi che per commenti, interventi, contributi, saluti di qualsiasi genere, potete contattarci a una casella di posta elettronica che è la seguente, ovvero liberetutti@autistiche.org. Per quanto riguarda la corrispondenza invece cartacea, chi ne ha la possibilità può farlo scrivendoci alla casella postale all'associazione Senza Sbarre, presso la casella postale 129 codice di avviamento postale 34121 Trieste. Credo di aver detto tutto quello che riguardava questo argomento, quindi non faccio altro che ringraziarvi per averci ascoltato fino ad adesso, dandovi l'appuntamento, diciamo, a giovedì prossimo, non prima di aver dato la parola anche alla regia per gli annunci, diciamo, dei brani musicali che abbiamo ascoltato. E quindi per il momento mandi, alla prossima volta da parte mia. Beh, prima di salutarci proprio definitivamente, per anche per oggi Zardins Magnetics è giunto al termine, sono quasi le 21:30. Volevo solo ricordare che prima abbiamo ascoltato dei brani della band triestina Upset Noise, estrapolati dal loro 7 pollici Disperazione Nevrotica, datata 1985, mentre ora stiamo ascoltando, forse ascolteremo ancora due brani, perché ce n'è tre per lato, insomma, fino alla fine della trasmissione, insomma, del nostro tempo a disposizione, di questa band inglese. Loro sono i Discharge e questo è proprio il loro primo 7 pollici datato 1980, Fight Back. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. Fucking sister! fuck your fucking sister! Rosa, with the stitch of Rosa, put you down, and it's your salvation now! Sylvester, fuck your fucking sister! Segna la smans.